24 mattino. Eccoci qua alle 8:17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi. L'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Sì. Allora, oggi parliamo di petrolio e bollette. Il collegamento può sembrare un po' azzardato, ma come tutti i nostri ascoltatori sanno, è sì, un diciamo collegamento molto molto è molto rapido. Più diretto con i prezzi della benzina, ma ovviamente le quotazioni del greggio spingono oppure possono ridurre anche le tariffe di elettricità e gas. E allora, partiamo con ordine. Arriva l'estate, la prova bikini incombe e anche le bollette di luce gas si mettono a dieta, per fortuna. Ma perché abbiamo voluto riparlare di questo argomento? Perché da qualche giorno le quotazioni del petrolio hanno rialzato la testa. Due giorni fa sono arrivate a $72 al barile e siccome, come dicevamo, le quotazioni del greggio si riflettono subito sui prezzi ai distributori di benzina, come sta accadendo in questo periodo, e con qualche settimana di ritardo sulle tariffe di luce e gas, ecco che i consumatori stanno già guardando a settembre con un po' di apprensione, nonostante nomi ma Energia abbia previsto invece per il periodo estivo una riduzione per elettricità e gas. E allora vi ripeto, facciamo un po' il punto della situazione con Marco Iezzi, economista, giornalista, esperto di politica industriale. Dottor Iezzi, buongiorno e benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a voi. Io direi di cominciare proprio con le quotazioni del prezzo del petrolio. Un anno fa cominciavamo un po' a preoccuparci, fino a toccare poi il picco di quasi $150 al barile a metà luglio, per cui questo trend, diciamo, di ripresa in questi giorni non è che ci piaccia molto, anche se forse non nasconde poi delle motivazioni così negative. Sta riprendendo la domanda, forse spinta un po' dalla ripresa economica, qualche luce in fondo al tunnel che comincia a vedersi. Sì. Dottor Iezzi, cosa sta accadendo alle quotazioni dell'oro nero? Ma dunque, innanzitutto ha detto che io in linea di massima non sono d'accordo con chi afferma, diciamo, che la crescita del petrolio è di preludio ad una ripresa. La stessa Banca Mondiale proprio in questi giorni ha rivisto drasticamente al ribasso le sue previsioni sull'andamento del PIL. Nel 2009 la crescita dell'economia globale sarà fortemente negativa, è stimata a meno 3%, mentre invece le precedenti stime la indicavano 1,75%. In realtà io credo invece che la rapida crescita del prezzo del petrolio, che come diceva lei ha superato i $70, siamo a $72 al barile, sia più frutto di mere speculazioni. Considerato che i consumi del petrolio sono in discesa, le motivazioni così a mio avviso vanno ricercate nella debolezza del dollaro, che in questi giorni paga un po' la forza anche dell'euro, che fa risalire le quotazioni espresse in valuta americana, anche considerando il fatto che gli stoccaggi commerciali degli Stati Uniti sembrano in flessione, benché comunque rimangano assolutamente abbondanti. E poi credo anche che sia la conseguenza dell'enorme massa di liquidità che è stata immessa sul mercato. Dunque, naturalmente tutto questo ha determinato ovviamente una corsa dei prezzi del greggio che negli ultimi 4 mesi, quindi diciamo in un lasso di tempo abbastanza limitato, in realtà è passato dai 40 a più di $70 al barile. Infatti questo, ricordo che il minimo dell'anno sì. Petrolifere e che quindi ovviamente come al solito hanno immediatamente adeguato i listini e hanno aumentato i prezzi dei carburanti nei distributori. Esatto, e questa è tutta un'altra questione che affrontiamo molto spesso qua e che fa notevolmente arrabbiare i consumatori, gli automobilisti. Volevo ricordare il minimo dell'anno toccato dal petrolio, in particolar modo dal Brent, il greggio di riferimento europeo, che è stato di $44,26 il 18 febbraio e adesso siamo a $72. Iezzi, ben lontani, dicevamo, dai $150 al barile dello scorso luglio, quando questa soglia aveva accompagnato, anzi aveva notevolmente spinto anche l'inflazione, l'indice dei prezzi al consumo che aveva superato il 4% nell'eurozona. Noi prendiamo a riferimento ovviamente quest'area e soprattutto il nostro paese. Questa ripresa delle quotazioni di questo periodo farà rialzare la testa anche all'inflazione, perché poi da qui vogliamo arrivare anche alle tariffe di luce e gas. Io non credo. Non credo, perché anche leggendo i rapporti sia della Banca Mondiale che della BCE, della Banca Centrale Europea, si coglie immediatamente una concordanza di opinioni nelle analisi. Dunque una sostanziale stabilità dei prezzi e invece una preoccupazione per l'incremento dei tassi di disoccupazione che stiamo registrando in questo periodo. Quindi non ci dimentichiamo che in queste settimane la stessa Banca Centrale Europea ha confermato all'1% il principale livello di riferimento sui tassi di interesse. Quindi questo è il minimo mai segnato in tutti i 10 anni di attività della BCE, un valore raggiunto dopo che nei mesi precedenti aveva effettuato ripetute riduzioni per rispondere all'aggravamento del quadro economico e dunque alla crisi economica nella quale siamo in questo momento. Quindi io non credo che ci saranno ulteriori correzioni, almeno nel breve termine, anche perché è stata la stessa Banca Centrale Europea a definire adeguato questo livello del costo del denaro. Quindi, insomma, leggendo questi dati ci si attende una stabilità dei prezzi e questa stabilità dei prezzi sia preservata almeno nel medio periodo, sostenendo il potere d'acquisto delle famiglie. Dunque questa è un'ulteriore conferma che dal fronte inflazionistico continuano a non esserci segnali d'allarme. Il vero problema, a mio modo di vedere, è dato dall'ulteriore deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Fermiamoci però, perché qui amplieremo oltremodo il nostro discorso, dottor Iezzi, non ce la facciamo questa mattina. Prezzi di elettricità e gas. Allora, con il petrolio che ha ripreso a salire in realtà nei trimestri da gennaio e da aprile, l'autorità per il gas e l'energia ha appunto ridotto le tariffe che paghiamo appunto per questi servizi. Adesso un'ulteriore riduzione potrebbe probabilmente esserci a partire dal 1 luglio, l'autorità ancora non si è espressa istituzionalmente, ha fatto delle previsioni però, come dicevamo, Nomisma Energia. Il dubbio dei consumatori è che non appena si avvicina la stagione estiva ovviamente le tariffe vanno calando e a settembre, alla luce delle quotazioni del petrolio che invece stanno salendo, quando i consumi riaumenteranno ritorneremo a parlare di tariffe verso l'alto. Secondo lei hanno ragione i consumatori? Ma dunque sì, che ci si possa essere una correzione in autunno, questo è assolutamente verosimile. È anche vero però che l'ulteriore calo che si prevede per le bollette di luce e gas è sicuramente influenzato dal fatto che nel 2008 c'è stata una crescita dei prezzi vertiginosa, quindi non mi sembra che ci sia un crollo dei prezzi, ma semplicemente un riassestamento delle tariffe elettriche e del metano, che dovrebbero registrare proprio nel trimestre da aprile a giugno, se i dati sono confermati come lei indicava, cioè quelli di Nomisma Energia, un ribasso del 9,5 per il gas e del 2,1 per no, forse questo ribasso è da luglio in avanti. Esatto, questo ribasso dovrebbe essere da luglio in avanti, però io credo che ci siamo dimenticati troppo presto dell'elevato costo delle bollette di luce e gas aumentate sulla scia degli incrementi del greggio che si sono registrati dalla fine del 2007 per tutto il 2008. Quindi le nuove tariffe che dovrebbero entrare in vigore dal 1 luglio, io credo che più che far risparmiare riporteranno a condizioni normali gli enormi sbalzi tariffari che ci sono stati lo scorso anno. Benissimo, insomma, quindi prima di parlare di un risparmio autentico dovremmo aspettare un'altra tendenza del petrolio, chissà quando ci sarà. Dottor Iezzi, io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina a Soldi e Dintorni, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. A presto, Alessandro. E allora alle 12 ritorniamo sui prestiti, anticipiamo come sempre la storia di copertina di Plus 24 in edicola domani con Il Sole 24 e parliamo di prestiti, in particolar modo di cessione del quinto dello stipendio. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Queste le notizie in primo piano. Continua la visita di Gheddafi in Italia. Ieri il leader libico ha paragonato gli Stati Uniti, che lo hanno attaccato nel 1986, al terrorismo di Osama Bin Laden. Il ministro degli esteri Frattini ha preso le distanze. Scontri anche fuori dalla Sapienza, dove Gheddafi ha parlato. Vi ricordo che della visita di Gheddafi ne parlerà Giuliano Ferrara dopo le 9. In Iran invece oggi si vota per il nuovo presidente, 4 i candidati, tra cui l'attuale Ahmadinejad, il suo rivale è il conservatore moderato Mir Hossein Mousavi. Domani i risultati, l'eventuale ballottaggio il 19 giugno. In Italia sì della Camera al DDL intercettazioni che ora passa al Senato per l'approvazione definitiva. L'opposizione protesta, è un bavaglio alla giustizia, mentre il capo dello Stato Napolitano dice: mi riservo di esaminare il testo e poi prendere le decisioni che mi competono. Infine il calcio con l'ultima follia, 94 milioni di euro per acquistare dal Manchester United Cristiano Ronaldo, la cifra più alta mai pagata per un calciatore. L'acquisto è del Real Madrid, che ha già preso Kakà. Spesa totale per due giocatori 161 milioni di euro. Tutto questo alle 8:33 minuti. E allora 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, come sapete. Torniamo a parlare di scuola, perché ha davvero riscosso molto successo. L'abbiamo già fatto qualche tempo fa e vogliamo tornare, perché sapete che è tempo di scrutini. C'è la nuova norma voluta dal ministro Gelmini, che a stretto rigore di logica imporrebbe che alle medie con un 5, con 2,5, sì, perché si sono ai decimali quest'anno, come sapete, bisognerebbe bocciare. Però che succede? Come diceva ieri Il Sole 24 Ore, bisognerebbe bocciare, d'accordo, ma dato che all'esame di terza media tocca arrivarci tutti, questo almeno nella scuola odierna, si esplorano le soluzioni alternative. E allora la scuola che mette il 6 rosso, che vuol dire che è un 5 ma ti mettiamo 6 in rosso così sai che è un 5 anche se leggi 6, il 6 con l'asterisco, il 6 con la nota a margine, il 6 con insufficienza sottostante, scrive sempre Il Sole, come i contratti derivati. Insomma, scuola che vai, scrutinio che trovi ed escamotage che trovi, almeno così sembra. Io voglio salutare Stefano Camasta, che è rappresentante dei docenti della scuola Farini di Bologna. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Voi cosa avete fatto? Voi avete detto, cari genitori, li avete tutti convocati, avete detto: se noi dovessimo seguire a stretto rigore di logica la legge, che poi adesso mi spiegherà anche cosa vuol dire, cioè nel senso se è una legge, bella o sbagliata che sia, è una legge. Comunque, se dovessimo seguire la legge, dovremmo bocciare quanti studenti? Guardi, noi ne abbiamo contati 73 su 382 totali della nostra scuola media. Che è una percentuale, adesso io in una matematica... Una percentuale intorno al 20%. Perché avrei già preso 5 in matematica, io sarei già stato bocciato. Attorno al 20%. E quindi... Sì. Che fate? E quindi noi abbiamo fatto così, abbiamo radunato i genitori prima della consegna delle schede, dell'esposizione dei quadri, e abbiamo letto loro la legge, che peraltro molti di loro conoscevano, almeno per sentito dire, e abbiamo mostrato appunto questi dati mettendoli a confronto con i dati reali, cioè abbiamo visto che rispetto al 20% di possibili bocciati, applicando alla lettera l'articolo 3,3 della legge 169, noi abbiamo avuto un 2,4% di alunni non ammessi. Questa decisione è stata presa, come tutti gli anni, in scienza e coscienza dai docenti, e abbiamo fatto presente come, a nostro avviso, la legge presenti delle forti contraddizioni. Sì. Cioè, ma che vuol dire, scusi, secondo la legge il 20% dovrebbe... Perché il 20% avevano anche solo un'insufficienza? Di questo 20%, almeno più della metà presentava soltanto una o due non sufficienze. Tenga presente che sono ragazzini di 11, 12 anni, 13, in evoluzione. Tutti quanti noi insegnanti siamo preoccupati del loro percorso di crescita, del loro percorso formativo, e non rinunciamo all'idea di fermare un alunno se questo lo riteniamo utile. Però non ci sembra che poche non sufficienze debbano per legge determinare la non ammissione. Ma che cos'è? Mi scusi, un escamotage? Voglio dire, la riforma del rigore, si è detto, la riforma della serietà, finalmente si ritorna alla serietà della scuola. Che è? Ieri Repubblica titolava: torna il 6 politico, scritto a caratteri cubitali, il 6 politico torna. Guardi, noi purtroppo ci siamo trovati in questa situazione. Ripeto, in scienza e coscienza abbiamo esaminato la situazione dei nostri alunni. Dopodiché, quando abbiamo deciso che, nonostante qualche non sufficienza, volevamo comunque ammettere alla classe successiva all'esame quel ragazzo, quella ragazza, abbiamo seguito esattamente la norma di legge, che purtroppo ci ha costretti a smentire il collega che ha portato la non sufficienza in consiglio, dicendogli: guarda, hai valutato male, dovevi scrivere 6 e invece sarei consegnato con un 5 o 4. Si è sbagliato. Beh, in qualche modo, diciamo, il consiglio deve dire che a livello disciplinare ci sono degli elementi che possono far pensare che l'alunno recupererà, che quel 5 e quel 4 comunque può essere scritto come un 6. E in più questo 6, cioè cos'è un 6 con le famiglie? Sì. che in realtà è un 5. Assolutamente indifferenziato. Quindi la famiglia regge 6, ma sa che è un 5 o un 4, c'è un asterisco, un rosso, un blu, un segno. Se la famiglia non segno. Parla con gli insegnanti, non li incontra, non riceve un foglio supplementare, legge 6 e pensa al 6, perché nulla può far pensare a un altro voto. Accidenti. No, ma rimanga con noi. Io voglio salutare anche Giorgio Rembado. Buongiorno Rembado. Rappresenta, si dice, per riassumere, il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, diciamo, che così tutti capiscono. Professor Rembado, quella del Farini di Bologna, come un esempio, ma ci sono, guardi, tantissimi esempi, il 6 con l'asterisco, il 6 rosso, il 6 che il 5 che diventa 6, il 6 con i contratti derivati. Che sta succedendo? Che ne pensa di questo? È un falso in atto pubblico, glielo chiedo, quello che fa il consiglio di classe, oppure si può fare? Mi faccia distinguere prima di tutto la comunicazione doverosa, necessaria, corretta con la famiglia sull'esito di fine anno dal giudizio complessivo del consiglio di classe, perché quest'ultimo è un giudizio complessivo che, sottolineo subito, è di tipo collegiale, cioè nasce da una valutazione di tutti i docenti che appartengono a quella classe e che hanno avuto modo di apprezzare le prestazioni dello studente, dell'allievo, dell'alunno nella scuola media da diverse angolazioni, sia sul piano del profitto che sul piano della partecipazione al dialogo educativo. E allora il primo compito che il consiglio di classe si deve porre è quello di valutare collegialmente l'idoneità dell'alunno alla prosecuzione degli studi. Questo è il punto di partenza. Dopodiché, una volta che ha deliberato dal punto di vista giuridico formale che l'alunno è idoneo, è evidente, ne consegue, e questo è anche il rispetto formale della norma dalla quale siamo partiti questa mattina, ne consegue che i singoli giudizi sui singoli voti non possono che essere giudizi di sufficienza. E la sufficienza viene tradotta da quest'anno anche nella scuola media in un 6. È la metodica che da sempre esiste nella scuola secondaria superiore e che non ha creato né clamori né sconcerti né altro, perché è sempre stata seguita, diciamo così, con pieno consenso, apprezzamento degli operatori, delle famiglie e quant'altro. Però, professore, ha visto, insomma, che ci sono tanti, li avrà letti lei, gli escamotage, insomma, cioè situazioni che a stretto rigore di legge porterebbero a una bocciatura, che diventano, no? Il ministro Gelmini ha già detto il 6 rosso è una cosa che non va, non si può fare. E questo fa parte del secondo elemento dal quale partivo, ed è quello della informazione e del dialogo con la famiglia. È evidente che dietro ad un giudizio sintetico espresso col numero 6, 5 o in questo caso ovviamente 6, 7 o qualsiasi cosa, ci sta una valutazione diciamo di maggiore dettaglio, soprattutto quando si è in una zona di confine tra il 5 e il 6, che è necessario comunicare ai genitori. Io prima che lo dicesse il ministro Gelmini devo dire che non ho mai creduto al 6 rosso, perché il 6 rosso, ho sempre detto, è un ossimoro, è una contraddizione in termini. Col voto si vuole indicare il giudizio di sufficienza, col rosso si vuole indicare il giudizio di insufficienza. Ma invece qui c'è una situazione, c'è una situazione invece strana. Dopo i risultati, dopo la pagella, dopo i quadri o quello che sia, è chiaro che è necessario da parte della scuola, da parte dei singoli docenti o di un gruppo di docenti della classe, rapportarsi ai genitori per dire in modo più specifico e più analitico quali sono le eventuali carenze del figlio anche nella singola disciplina. No, ma questo sì. Che però il professore dice devono arrivare i genitori. Professor Camasta, a questo proposito, ma non crede, insomma, che ma io, per carità, non sono qui a dire, se fossi professore probabilmente promuoverei tutti con l'otto, sarei un disastro, insomma, però sarei un disastro, cioè almeno lo dico, sarei un disastro, nel senso che un po' di non di severità, ma di giustizia, cioè quello che ha preso 4-6 nei compiti arriva col 6, quello che ha preso 4-5 e che questo 5 si tramuta in 6. Cioè, che giustizia è? Certo, Guardi, io concordo con l'analisi che faceva il dirigente. È chiaro che tutte le decisioni all'interno di un consiglio di classe in sede di scrutinio sono consiliari. Anche in passato sempre si è votato, ma per l'ammissione o la non ammissione dell'alunno alla classe successiva. No, va bene, questo sì, a livello collegiale. Vabbè, no, però le rifaccio, no, che giustizia è, voglio dire, le ripeto. Cioè, secondo lei è giustizia portare a 6 uno che aveva 5 e lasciare a 6 quello che aveva 6? Vede, lei si immagina un alunno che sa di non meritare quel 6, che sa che tu per tutto l'anno ha reso da 5 o da 4, che gli è stato spiegato perché nonostante i recuperi e quant'altro, e che si vede 6 in pagella. Ho l'impressione che più che altro sia diseducativo, un messaggio fuorviante. No, che appunto, no, non ho capito, cioè appunto, se ha sempre 5 e si ritrova 6, farà una bella festa e dice tanto, anche se non studio, alla fine mi promuovono lo stesso. Non si poteva ammettere comunque l'alunno alla classe successiva pur in presenza di qualche 5, di qualche 4? E vabbè, ma questo però voglio dire, mettiamo un punto, la legge c'è, io non sto a dire come l'altra volta se è giusto o sbagliato, però la legge c'è, voglio dire, se non facciamo un passo in avanti, una volta che la legge c'è, le richiedo per la terza volta se trova giusto che uno che ha 5 allo scrutinio collegialmente si decide di dargli 6 perché non lo si può bocciare. Io temo che non sia educativo e noi abbiamo come prioritaria necessità quella di educare i nostri ragazzi e comunicare correttamente con le nostre famiglie. E non di bocciare. Che applicando la legge, il bocciare nel caso in cui sia indispensabile lo riteniamo valido in scienza e coscienza. Non sempre, ecco, meccanicamente si può determinare una non ammissione con una sola non scelta. Ma magari è ma più educativo. Non si può comunicare. Ma magari, magari è più educativo bocciare una volta. Non c'è ombra di dubbio, guardi, noi siamo tutti quanti impegnati a prendere delle decisioni pesanti, ce ne rendiamo conto, con il massimo dello scrupolo possibile. Riteniamo però che, vede, se una legge imponesse a un collegio di medici di ingessare da capo a piedi un paziente solo perché ha un dito rotto, io penso che i medici si ribellerebbero, ma non tanto perché è giusto o non è giusto, non sarebbe in linea con la loro deontologia professionale. Francamente non so perché gli insegnanti invece debbano accettarlo. Vabbè, professor Rembado vuole chiudere, prevede altri, diciamo, confusioni, scrutini arroventati, sempre così sono stati gli scrutini, chi si arroventa sul nulla, quindi questa è una previsione fin troppo facile, però mi faccia concludere con una valutazione comparativa. Oggi fa tanto scalpore il voto, la sufficienza del 6 dietro alla quale c'è qualche carenza nella disciplina. Io mi chiedo come mai altrettanto scandalo non sia stato condotto da parte dei docenti nel corso degli anni, quando davano dei giudizi analitici di sostanziale insufficienza, promuovendo sempre i loro studenti all'anno successivo. Certo. Perché questo è perché il lì non dovevano, non dovevano tradurre in numero, che è più evidente, no? Lei dice, il numero dà ovviamente maggiore chiarezza ed un criterio di assoluta trasparenza. Il giudizio analitico spesso fumoso dietro al quale si maschera un giudizio di sostanziale insufficienza era molto peggio ed era la realtà assolutamente accettata nella scuola media da un sacco di anni. Ecco, quello non faceva scandalo. Va bene. No, la logica invece fa strappare le vesti. Allora io vi ringrazio Giorgio Rembado, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e Stefano Camasta, che rappresenta i docenti alla scuola Farini di Bologna. Vedremo gli scrutini, poi ci sono la prossima settimana gli esami, insomma poi arrivano gli esami della maturità, come al solito. Allora, le 8:48 minuti, la vicenda è finita anche sulle pagine di Avvenire, con una presa di posizione molto dura del direttore di Avvenire, Dino Boffo. Voglio salutare la signora Claudia dalla provincia di Terni, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei, signora, ha fatto una gita con famiglia a Gardaland, uno dei luoghi del divertimento per famiglie e bambini, e ha trovato quella che lei ha definito in una lettera mandata a Avvenire una sgradita sorpresa, cioè... Cioè, noi siamo entrati, come ormai anche tradizione d'estate, cerchiamo di portare il bambino a Gardaland come un po' premio di fine anno. Siamo stati lì e dopo aver fatto circa un'ora di fila per una delle attrazioni, ma che è una fila sopportabilissima perché c'è l'aspettativa e l'entusiasmo, quando al varco toccava finalmente a noi, abbiamo visto un gruppo di persone sorpassarci e a conquistarsi il nostro posto sull'attrazione. Perché avevano acquistato, ci è stato poi spiegato, un biglietto supplementare di 8 euro a persona che si chiama Gardaland Express, per cui è questo biglietto evita coda. Ora, noi, è un biglietto che permette di evitare le code agli attrazioni, esatto, più importanti. 10 attrazioni. E perché a lei vi ha talmente sconvolto da scrivere una lettera ad Avvenire? Per una ragione molto semplice, perché credo che siamo stati tutti educati al fatto che la fila è una forma di democrazia. Credo che usiamo sempre l'Inghilterra come esempio, la fila in Inghilterra, il rispetto della fila, e credo che l'uguaglianza che si ha in una fila è fondamentale per tutti i bambini che vanno in un parco divertimenti, perché il bambino sa che sono tutti uguali e tutti devono attendere. Cioè, lei dice non è un messaggio educativo, e questo avete scritto ad Avvenire. Il direttore di Avvenire, Dino Boffo, vi ha anche risposto dandovi ragione, dicendo che è assolutamente sbagliato. Dice Dino Boffo, c'è sempre la volontà di scovare sempre nuove nicchie di possibile profitto, e penso che si sia raggiunto con questa misura un livello singolarmente sgradevole, al punto da risultare controproducente. Insomma, questo Gardaland Express, pagare per evitare le code, anche al direttore d'Avvenire non piace. Dice anche: sono convinto che così la pensano anche tutti i lettori di Avvenire. Allora, signora Claudia, noi abbiamo chiamato qui con noi l'amministratore delegato di Gardaland, Aldo Vigevani. Vigevani, buongiorno. Buongiorno. Allora, dottor Vigevani, è diseducativo questo Gardaland Express? Guardi che anche Dino Boffo ha detto: spero proprio che si cancelli questo balzello discriminatorio. Che dici? Mamma mia, sono veramente allibito da questa polemica. Sì, rido. Cioè, noi siamo un'azienda privata, facciamo delle offerte commerciali, chi vuole le accetta, chi vuole non le accetta. In America, nei grandi parchi famosi, non cito i nomi, questi prodotti, questi servizi sono stati introdotti già nel 1999. Ovunque nel mondo si vedono l'introduzione di prodotti con un livello di servizio più elevato. Chi vuole li compra, chi vuole non li compra. Ho sentito parlare di democrazia e uguaglianza, ma io faccio un esempio veramente banale, visto che stiamo arrivando vicino all'estate. La spiaggia è lì. Chi vuole va nei bagni, chi vuole affitta l'ombrellone, chi vuole prende l'ombrellone addirittura in prima fila, che è sicuramente più caro ed è più vicino al mare. E forse l'ombrellone in prima fila è diseducativo? Allo stesso modo io posso dire che a livello ci sono dei prodotti che ci danno esattamente lo stesso contenuto, trasportarci, le automobili. Io posso essere trasportato con un'utilitaria oppure essere trasportato con una vettura di alta classe. Io posso vestirmi con una maglietta da 5 euro, posso anche vestirmi con una maglietta con una grande griff. Quindi lei dice non c'è un messaggio diseducativo, come dice la signora Claudia, che coi soldi si può comprare il passafila. Sono allibito, ripeto, che un giornalista come questo Boffo, che non ha piacere di conoscere, parla del tempo delle cose così. Beh, adesso non dica così, non lo devo difendere io, ma il direttore di Avvenire, dei giornalisti. C'è una roba diseducativa. Non parliamo dei prodotti qualunque, i prodotti che uno se vuole acquista alla pista delle aziende private. Parliamo di altre cose. Comunque, dottor Vigevani, visto che approfittiamo, signora Claudia vuole all'amministratore delegato di Gardala, non so, fare un appello anche lei. Dice perché ha sentito Vigevani, dice è allibito. Due cose all'amministratore. La prima cosa che gli vorrei dire è che quando uno viene, ripone la fiducia in un parco, perché è un parco per famiglie, è un target, lei può anche non essere d'accordo, ma io come cliente, ma un cliente annuale di Gardaland, che vengo con famiglia, amici, eccetera, non verrò più perché trovo che sia diseducativo. Lei ovviamente può rimanere della sua opinione, ma io l'ho trovato un insulto a chi cerca di venire anche in un luogo dove ripone la fiducia nell'imprenditore. Tra l'altro, guardi signora, però ci dicono anche molti messaggi, ci dice anche chi ha il conto banco posta salta la fila, la precedenza delle poste. Ai Musei Vaticani c'è il biglietto speciale che ti porta direttamente all'interno. Leggo dei messaggi che arrivano. Cioè, questo a livello commerciale, ci dice anche l'amministratore delegato, è una scelta che il cliente poi sceglie se seguire oppure no. Lei però rimane dell'idea che è diseducativa, signora. Opinione, dove ci sono i bambini, dove si cerca di educare i bambini, io non faccio un discorso di adulti, faccio un discorso legato all'infanzia, alla presenza di tanti bambini. A cui non si può dare questo esempio. E volevo dare anche un piccolo commento aggiuntivo. Dal punto di vista prettamente commerciale, lei giustamente dice sono in tanti a vendere il tempo altrui, però io vorrei fare un commento. Quando lei vende un prodotto che in realtà è il mio tempo, non so quanto sia legittimo vendere il saltafila. Va bene, in 30 secondi, dottor Vigevani, la questione è che avete a che fare coi bambini e quindi questo è il punto su cui la signora Claudia punta. Ripeto, voglio essere veramente, i bambini vanno in spiaggia, i bambini salgono sulle macchine, i bambini si vestono con le griffe, è una scelta personale, spendo di più, spendo di meno, in tutti i settori. Io non ho voluto citare BancoPosta piuttosto che Musei Vaticani, che diciamo pure al signor Baffa di andare a guardare i Musei Vaticani, è un'offerta commerciale, chi vuole l'accetta, chi non la vuole no. I veri problemi, ripeto, allora lì veramente sono indignato anch'io. Parliamo della salute pubblica, sapete benissimo che per fare un esame andate con la mutua e aspettate 4 mesi, oppure se vogliamo dobbiamo pagare e andare in privato. Questa è la verità, queste sono le cose serie. In ogni caso, sì o no, non lo togliete ovviamente, immagino di no. È un'offerta in più, è un servizio in più. Perfetto. Chi vuole la compra, chi non lo vuole non lo compra. È stato chiarissimo, la ringrazio. Vi ringrazio, Aldo Vigevani, amministratore delegato di Gardaland, e la signora Claudia della provincia di Terni, insomma, che ci ha spiegato questa sua posizione. Grazie davvero. Tra poco Giuliano Ferrara, la visita di Gheddafi in Italia, questo è il tema dopo le 9, e noi, ringraziando Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricelli in regia, ci ritroviamo lunedì. C'è una mail 24 mattino e tra di 24.it a lunedì.